In principio, quando la medicina era unita alla spiritualità, poiché il corpo e l'anima venivano curate dalla stessa persona e guarivano insieme, erano le donne a esercitare l'arte della guarigione, erbane, levatrici, sciamane. Le donne, datrici di vita, erano per natura predisposte a preservarla e sapevano, per studio e per istinto, cosa fare. Ogni donna di casa aveva conoscenze mediche da offrire alla famiglia e al clan. Poi il patriarcato divise il corpo dall'anima e affidò le cure separatamente a un potere laico e a uno religioso, entrambi in mani maschili. Le donne medicina divennero streghe da perseguitare e dovettero esercitare di nascosto oppure nei monasteri, protette dal velo monacale fino a un secolo fa. Nell'antichità, sia storica che mitologica, vi furono valenti mediche e scienziate. La regina Cleopatra col suo trattato di ginecologia, la maga Circe con le sue molte pozioni, come la definì Omero, Maria l'alchimista e la sua allieva Ipazia di Alessandria, poi le medievali Hildegard von Bingen, la magistra renana, e Trotula de Ruggero della scuola salernitana, eminenti scienziate e grandissime donne medicina. Più avanti, di qualche secolo, Mary Wortley Montagu col suo importante contributo sul vaiolo e Laura Bassi, docente di fisica e anatomia all'Università di Bologna. Nell'Ottocento le donne dovevano travestirsi da uomini per esercitare l'arte medica, come colei che fu conosciuta come valente chirurgo James Miranda Berry, di cui si scoprì l'identità solo dopo il decesso, ma che aveva eseguito con successo il primo cesareo, salvando dalla morte per parto in seguito centinaia di donne. Tuttavia, furono due grandi mediche di epoca vittoriana a rompere il tabù che vietava alle donne lo studio e l'esercizio della medicina, ed è proprio a loro dedicata questa playlist in cui viene presentato in tre puntate l'eccellente studio di Giulietta, figlia di Amedea, letto da lei stessa. E stiamo parlando di Elizabeth Garrett Anderson ed Elizabeth Blackwell, le prime mediche rispettivamente in Inghilterra e in USA. Dopo di loro è stato più facile, e anche se in questa breve presentazione ricordiamo solamente altre tre mediche eccezionali, Maria Montessori, Anna Kulishoff e Rita Levi Montalcini, il numero delle straordinarie donne che dall'Ottocento a oggi ha curato e guarito l'umanità è sicuramente enorme. Tra queste la stessa Giulietta, autrice della ricerca, medica e agopuntrice. A voi, dunque, l'incredibile storia di Elizabeth Garrett Anderson ed Elizabeth Blackwell. Da Devana, buon ascolto.